Incontri di Gianfranco Fabi. Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh ich wieder aus. Der Mai war mir gewogen mit manchem Blumenstrauß. Das Mädchen sprach von E con le note di Schubert, Gute Nacht, da Vittor Reise, salutiamo i nostri ascoltatori e salutiamo Fabio Zoffi. Buonasera. Ecco, prima di presentarvi Fabio Zoffi, vi facciamo spiegare come mai ha scelto questo lead di Schubert, questa musica, questa Gute Nacht, e soprattutto di un baritono, Thomas Quasthoff. Ma intanto le faccio i complimenti per la pronuncia, Gute Nacht, è molto buona. Ma la scelta di questo Winterreise, i viaggi d'inverno di Schubert, è perché mi ha sempre ispirato. Sono un ciclo di 24 lieder, quindi di composizioni per canto e per pianoforte, e che raccontano un po' del viaggiatore, questa mitologia, il pathos romantico tedesco del viaggiatore che attraversa la vita e capisce tante cose, e quindi insomma credo che sia un brano anche che racconta un pochino della Germania. Ecco, racconta della Germania, l'accento mi sembra un po' veneto il suo, anche se è un bellissimo italiano, complimenti per la pronuncia anche da parte sua, però perché la Germania? Ma veneziano, ci tengo a puntualizzarlo, e forse come un po' tutti i veneziani che amano girare per il mondo, io vivo da 20 anni in Germania, a Monaco di Baviera, e quindi la mia cultura è una cultura italo-tedesca oramai. In Germania è presidente di ORS Group, una software house che lei stesso ha fondato. No. Devo confessare che io sono rientrato 3 anni fa dalla Germania a fare attività, fare attività imprenditoriale in Italia. Ho scoperto un gioiellino italiano, una società di origini piemontesi, che ha un team di 50 scienziati informatici che fanno piattaforme software per i big data. Poi ce lo spiegherà, appunto, perché cogliamo l'occasione anche per capire cos'è questo big data di cui si parla tanto, ma che forse pochi sanno, compreso io, che cosa veramente è. Assolutamente. E quindi in qualità di presidente sto aiutando un pochino questa società a internazionalizzarsi. Quindi viva Monaco di Baviera, presidente di questa società, che è una società italiana però, per quanto capisco. È una società italiana, adesso italo-tedesca, e che sta mettendo il naso un po' fuori dall'Italia con grande successo. E come mai Monaco di Baviera, dalla Serenissima alla capitale economica della Germania? Ma è stato un caso, nel senso che io quando ho finito l'università ero un giovane studente che aveva voglia di andare un pochino fuori dall'Italia, ho iniziato a lavorare per un grande gruppo veneto. Possiamo fare il nome? Sì, Benetton. E ci fu un'occasione di andare in Germania, io dissi assolutamente sì, presi tipo emigrato dell'epoca, macchinetta, cartone, valigia di cartone, e poi sono arrivato a Monaco di Baviera e ci sono rimasto, è una città che amo molto. Perché è bella Monaco di Baviera? Solo perché c'è l'Oktoberfest, si beve tanta birra, si è allegri, è una città efficiente come le città tedesche. I miei amici dicono che il colore biondo aiuta della birra, ma non solo. Ma non solo. Scherzi a parte, no, Monaco è una città che ha un pochino meno della popolazione di Milano. Una città molto, per chi ha famiglia, io ho famiglia con 2 bambini piccoli, molto, molto bella, molto godibile, tranquilla, pulita, efficiente, come dice lei. Sì. Ecco, in questo senso, capitale della Baviera, Baviera è lo stato forse trainante dell'economia tedesca, grandi imprese, anche qui possiamo far nomi, la Bayer, la BMW, indubbiamente. E che paragoni si possono fare tra la Baviera e, che so, il Veneto? Allora, la Baviera è la regione più ricca insieme al Baden-Württemberg della Germania, così come in Italia abbiamo il Veneto e il Piemonte. C'è una situazione molto simile a quella italiana, che forse non tutti conoscono, nel senso che la Baviera e il Baden-Württemberg finanziano con il loro surplus tutti gli altri Länder, quindi tutte le altre regioni tedesche che sono in perdita. E se vuole un aneddoto, la capitale Berlino è come Roma. ogni anno brucia un sacco di soldi e deve essere salvata dai contribuenti. Non c'è solo a Roma questo problema. Certo. E poi forse Monaco è come Milano e Venezia messe insieme, non c'è stato profilo. È una buona definizione. Ecco, ma andiamo poi sull'economia. Lei appunto in Germania però ha fatto come professione il venture capitalist, ha fatto... Sono stato all'inizio manager per il gruppo Veneto di cui parlavamo prima, poi sono diventato un venture capitalist. Quindi che cosa vuol dire venture capitalist? Molto facile, chi finanzia le start-up, ok? Quindi noi, con i soldi degli altri magari? Con i soldi degli investitori, ma anche con i miei. Quindi difatti io poi sono diventato un intraprenditore, come mi definisco. Quindi un intraprenditore per me è un imprenditore con un'alta propensione al rischio. E ho creato io stesso una società in Germania di successo nel settore delle telecomunicazioni. Poi ho deciso di rientrare nel 2010 in Italia a investire come imprenditore e ho trovato delle opportunità molto interessanti nel mondo alimentare. Io faccio il vino, per esempio, in Piemonte, e questa bellissima... Vino reale, non vino virtuale. Vino reale, una delle poche cose non facilmente duplicabili. Esatto. Quindi ecco, indubbiamente allargando la mia attività non solo alle attività, così dire, avanzate, virtuali, ma anche alle cose concrete. In realtà, se vuole, proprio questo un connubio che a me piace molto, la tecnologia e l'agricoltura. Quindi dopo, sa, le tensioni del mondo tech, Twitter, sempre il mondo piatto, in frenesia, tra le vigne, il silenzio. Ecco, però il vino si potrà ordinare via web? Assolutamente sì, noi abbiamo una piattaforma online che spedisce in tutta Europa il vino, esatto. Quindi così. C'è un matrimonio anche sotto questo profilo, il prodotto resta il prodotto, ma poi tutto il resto diventa virtuale. Tra l'altro, se mi consente, proprio il digitale è la grande opportunità per queste micro aziende italiane che hanno prodotti di qualità, che non sono ancora conosciuti nel mondo e queste aziendine sono troppo piccole per poter finanziare una campagna commerciale tradizionale all'estero. Invece con una piattaforma web ben fatta, che costa poco, uno può poi far conoscere la bontà del cibo italiano in tutto il mondo. Che differenza c'è tra realizzare una startup in Italia, un'azienda appunto che nasce dal nulla, e realizzarla in Germania? È più facile probabilmente in Germania o è solo una favola giornalistica il fatto che in Italia sia tutto più complicato? No, allora, in Europa il posto più facile dove fare le startup è l'Inghilterra, indubbiamente, Londra. La Germania però ha recuperato molto, nel senso che ha facilitato il processo per le startup, tant'è che Berlino è diventato uno dei centri, no, insieme a Londra. In Italia adesso con la nuova legislazione, con le nuove iniziative, stiamo cercando di approntare dei meccanismi simili. Speriamo bene, perché fare oggi le startup fino ad oggi in Italia è stato un po' complicato. Da un punto di vista burocratico, amministrativo, contabile, fiscale o anche da un punto di vista di risorse umane? No, è il primo, nel senso che la grande... racconto sempre che l'Italia è ha una talent valley, no? Invece di Silicon Valley. Noi abbiamo delle eccezionalità imprenditoriali, e purtroppo però spesso facciamo marketing negativo, quindi non sappiamo raccontarci, e abbiamo un sistema paese effettivamente più difficile, di altri. Ecco, in questo senso lei ha preferito restare a vivere in Germania pur avendo ormai un rapporto continuo con l'Italia, con le aziende che controlla in Italia. A parte avere moglie tedesca e bambini bilingui, quindi effettivamente il motivo per rimanere a Monaco c'era. Io ogni settimana vengo giù a seguire le attività e appunto in primis questa bellissima società piemontese di software. Ecco, società piemontese di software, volevo appunto tornare e iniziare a parlare di questo big data. Che cos'è, come definirebbe big data, questo grande insieme di dati? Esatto, big data vuol dire i grandi dati. Allora, è molto semplice. Negli ultimi 20 anni abbiamo digitalizzato un sacco di processi, pensiamo ai processi aziendali, e c'è una marea, trilioni di gigabyte di dati disponibili. Questo perché le grandi aziende, per esempio, hanno messo sui sistemi come SAP che digitalizzano, insomma, le loro attività. Cioè tutto è contenuto nei computer, nei database, nelle banche dati, esatto. Il tema è: cosa possiamo fare con questi grandi dati? E negli ultimi 5 anni sono nate delle società Questa piemontese in realtà esiste da 18 anni, quindi ha sviluppato per esempio un portafoglio prodotti immenso, che vanno a prendere questi big data e estraggono valore. Incontri. Sacht, sacht die Türe zu, schreib ihm vorübergehen ans Tor dir gute Nacht. Gute Nacht, con queste note, con questa voce, con questo augurio di Thomas Quasthoff dal Winterreise di Franz Schubert, riprendiamo il nostro incontro con Fabio Zoffi. Ecco, dicevamo prima perché Schubert, ma anche Thomas Quasthoff ha una storia, questo baritono che interpreta con maniera così, così forte queste parole, questa musica. Sì, tra l'altro speriamo Gute Nacht, che vuol dire buonanotte, di non far addormentare gli ascoltatori. Ci ascolta, soprattutto se stanno guidando, quindi esatto. Svegliatevi, però la forza è anche in questo. Ma Thomas Quasthoff è un baritono eccezionale, consiglio a tutti di guardarselo anche su YouTube, perché è un signore focomelico, per sfortuna, e quindi insomma non ha gli arti, e quando compare sui palchi ha questa voce incredibile ed è veramente insomma, mette tutta la sua passione proprio nella voce, nella sua presenza. Infatti in Germania viene chiamato la voce, la voce, la voce. Ecco, dalla voce passiamo ai dati. Abbiamo concluso la prima parte parlando di big data, di cos'è questa nuova formula, questa nuova definizione che sta prendendo sempre più piede, e ci spiegava appunto Fabio Zoffi, che presidente e chairman di ORS Group, che appunto big data è utilizzare tutta la massa di dati che sono presenti, che le aziende raccolgono, che mettono insieme, e sono dati magari anche di forma diversa. Abbiamo dei numeri, abbiamo delle lettere, delle parole, abbiamo dei discorsi, magari abbiamo delle cifre, abbiamo magari delle immagini. Ecco, si possono utilizzare, e ci sono dei sistemi per utilizzare questi dati in modo da rendere in fondo più efficienti le imprese. Sì, la ORS fa proprio questo, fa piattaforme per le grandi aziende. Noi spaziamo tra tutti i settori, dall'industria ai consumer products, agli ospedali, fino alla banca e all'energia, e estraiamo efficienza. Un paio di esempi credo possano esemplificare il tutto. Naturalmente per un grande gruppo bancario stiamo facendo un software che fa la previsione di quale sarà la domanda di banconote in ogni singolo bancomat, in ogni filiale, per taglia di banconote. In modo da non lasciarli dormire per troppo tempo, just in time anche sul fronte delle banconote. Bravissimo, e in modo da permettere di risparmiare soldi importanti nella distribuzione su migliaia di nodi di queste banconote. Quindi sulla base del passato si costruisce un'ipotesi di futuro quanto più realistica. Corretto, come per esempio noi prevediamo per grandi gruppi dell'energia quale sarà la domanda nei prossimi 3 giorni di 1 milione di clienti, e i sistemi, gli algoritmi della statistica, della matematica, dell'econometria riescono a identificare quelli che sono i comportamenti simili, senza bisogno che un manager vada a dire cosa impossibile, che quella è un'acciaieria, eccetera. Anche perché il comportamento dei singoli può essere razionale, ma messo insieme poi il comportamento è prevedibile. Abbastanza prevedibile in molti casi, esatto. In questo senso si tratta, possiamo dirlo un po' in maniera filosofica, di non perdere memoria della storia, la storia costruita attraverso i dati che viene riutilizzata e diventa un insegnamento per il futuro. Questo è quello che fanno questi nuovi strumenti, che sembrano complicati ma dovrebbero servire a semplificare, se non la vita, almeno la gestione operativa delle imprese. Assolutamente, e le farò un esempio che la sorprenderà, di come questi software possono anche aiutare a migliorare la qualità di un prodotto agricolo come il vino. So che adesso tutti gli enologi in ascolto faranno il segno, prendono il pupazzetto voodoo. Noi abbiamo un software, è una cosa molto nuova che tra poco anche comunicheremo, che fa la previsione della curva di maturazione delle uve, utilizzando i dati della storia dei vari tipi di uve, dalla Barbera al Nebbiolo, per individuare qual è il momento perfetto no, il picking point di raccolta delle uve per fare il vino più buono del mondo. Quindi diciamo, però, mettendo insieme un po' l'intuito dell'agricoltore che si serve anche di questi strumenti, ma poi dopo il naso comunque resta fondamentale anche dal punto di vista. Ecco, il pericolo forse di questi strumenti è di fidarsi un po' troppo. Devono restare degli strumenti, delle capacità che affiancano poi la creatività, l'invenzione, la capacità delle persone di trovare anche soluzioni nuove a problemi nuovi, non solo rifacendosi al passato. Quindi forse anche uno dei vostri compiti è quello di salvaguardare, cioè di dare alle persone che devono operare tutte le informazioni necessarie, però lasciargli un po' di libertà di agire. Questo è un ottimo punto. In effetti io uso una metafora dicendo che questi strumenti sono un po' come una PlayStation che noi mettiamo in mano ai manager aziendali, che poi possono decidere, certo, fare le simulazioni e anche divertirsi in questo senso nel governare le aziende. Ecco, qual è la soddisfazione principale, quale problema maggiore affrontate o risolto nella sua esperienza, quale elemento di dire ma ho trovato un modo nuovo di affrontare un problema vecchio? Alcuni magari si sono scontrati o si è scontrato lei stesso spesso per settimane se non dei mesi, a un certo punto ecco la soluzione. È sempre all'interno del tema dei big data, immagino. Ma sì, come. Ok, ma guardi, c'è un tema di cui tutti oggi parlano, la famosa spending review, no? Bene, siccome tra l'altro il governo italiano ha comunicato che entro quest'anno metteranno online tutti i dati dettagliati della spesa pubblica, e sarebbe un grandissimo passo, certo, in avanti. Noi abbiamo quasi per gioco sviluppato un primo modellino di ottimizzazione, quindi per fare la spending review intelligente, no? E quindi come decidere quali tagli fare, dove, per che abbiano un minore impatto occupazionale, deflattivo e che facciano meno male, quindi tagli intelligenti. Questa è una cosa che non credo ancora nessun governo stia facendo, e noi abbiamo fatto quasi per gioco questa prima cosa. Nemmeno poi il governo della Baviera, nemmeno il governo. No, guardi, a me piace molto raccontare una serie di aneddoti che spiegano un po' questa differenza. Ecco, diciamo per chi magari avesse perso la prima parte che Fabio Zoffi vive da 20 anni a Monaco, a famiglia Monaco di Baviera, e divide la sua attività tra la Germania e l'Italia. Per questo parliamo anche della Baviera e della Germania, ma prego. Sì, volevo dire che noi italiani siamo ben consapevoli dei nostri problemi, le nostre pecche e tutto, però i tedeschi sono anche molto bravi nel vendersi molto bene spesso, quindi potrei raccontare un sacco di aneddoti. Beh, però a Monaco per esempio, quando decido di fare un nuovo aeroporto, hanno chiuso quello vecchio. In Italia non si chiude mai niente. È vero, mentre però a Berlino, se ha letto, sì, l'aeroporto non l'hanno nemmeno finito e hanno già speso 3 miliardi in più rispetto al budget, quindi Monaco è diversa da Berlino e dal resto della Germania, in effetti. Anche qui forse bisogna parlare anche di Germanie, magari non solo due o tre. Germanie, esatto, corretto. Ecco, in questa prospettiva, appunto, non tutto quello che si dice della Germania, però qualche passo in avanti la Germania potrebbe farlo per aiutare un po' questa Europa a scrollarsi di dosso la recessione, a scrollarsi di dosso la crisi. È vero, ma credo sia stato fatto, nel senso che chi segue un pochino la macroeconomia avrà notato che negli ultimi 3 mesi la Germania ha preso delle decisioni che nessuno si aspettava. Introduzione del salario minimo, quindi aumento del costo del lavoro. Riduzione dell'età pensionabile a 63 anni, in completa controtendenza rispetto a tutti gli altri paesi europei, e Weidmann, l'uomo che rappresenta la Bundesbank, ha detto che la Germania è oramai d'accordo nel permettere a Draghi di stampare moneta. Quindi mi sembra, sì, che una rivoluzione in pratica, una rivoluzione. Quasi, quasi. Comunque una certa efficienza in più dei servizi pubblici, nei rapporti con l'amministrazione. Questo lo posso confermare, è il bello di vivere con una burocrazia funzionante. Faccio un esempio: la dichiarazione dei redditi sono 4 pagine, e se lei è in ritardo e manda una lettera in cui spiega al fisco perché è in ritardo, non paga nessuna penale e le danno tempo di completare, quindi è un rapporto completamente diverso. E anche le tasse forse sono un po' più basse, soprattutto per chi tiene famiglia. Corretto. Quindi in questa prospettiva, ecco, abbiamo parlato di Venezia, delle sue origini veneziane. Mm-hmm. Che cosa porterebbe di veneziano in Germania? Ah, io sono un grandissimo amante di Venezia, è una città che ogni volta che io visito risveglia dei ricordi incredibili. A me piacerebbe che il modello sviluppato nel tempo dalla Serenissima, quindi un modello di governance intelligente e di saper fare affari in tutto il mondo in maniera appunto intelligente, potesse essere un modello anche un pochino per il nostro paese Italia, che ha tante belle cose. Certo. Sì, no, da non portare, non colonizzare, ma di portare un po' di civiltà. Marco Polo, Marco Polo, so. Marco Polo, Marco Polo. Questa capacità di scoperta. Esatto. Ecco, lei si è occupato di tante cose, pur essendo ancora giovane, ricordiamo, è del 68, non ha fatto il 68 nascendo in quell'anno. Ah, si può rivelare in radio. Sì, si può rivelare, in soprattutto dei maschietti si può rivelare. Va bene, va bene. Si è occupato di finanza, si è occupato di telecomunicazione, si è occupato di energia rinnovabile, si è occupato di vino. Se dovesse scegliere un'attività, una sola, invece di occuparsi di tante cose, che cosa sceglierei? Questa è una domanda molto bella, perché in realtà io un sogno ce l'ho. È una tutt'altra cosa, magari. Sì, esatto, è così. E tra l'altro l'ho detto solo ad una persona ad oggi. Beh, adesso siamo solo noi due. No, se c'è un po' di qualche ascoltatore ce l'avrete. Io quando avrò finito di fare business, che faccio in realtà perché mi diverto, mi piacerebbe insegnare. Ho avuto la fortuna di imparare molto dai miei professori, dai miei docenti e... Quindi questo è un po'... Ma insegnare big data o insegnare filosofia? Ah, non lo so ancora. O storia economica, o la storia, o i doji e la Serenissima. Guardi, lo vedremo, lo vedremo. E intanto, allora, è stato sull'attuale, più il vino o più il software? O tutte e due insieme? Oppure il modo, appunto, come vi diceva, di produrre e vendere del buon vino, venderlo bene attraverso dei sistemi di software molto evoluti. Il software è il lavoro, il vino è il piacere. Ecco, in Italia c'è ancora grande opportunità per sviluppare nelle imprese questa cultura di big data, possiamo chiamarla così. Sì, però la sorprenderà sapere che già un sacco di aziende italiane, che sono nostri clienti, grandi gruppi, nomi famosi, già da anche oltre 10 anni hanno iniziato a utilizzare questi software, quindi non siamo così indietro su questo tema come magari quindi pensiamo. L'Italia è un paese comunque che sa difendersi, non per nulla siamo dietro la Germania, però la seconda potenza industriale europea. Assolutamente, assolutamente. In più noi abbiamo una tra le prime principali manifatture per valore aggiunto, che è diverso, no? Rispetto alla misurazione per valore aggiunto, noi siamo tra i primi al mondo. Quindi, ancora. Quindi nei settori classici, alimentare, la moda, ma anche nei settori evoluti come la meccanica. La meccanica, meccatronica, tante piccole aziende che producono macchine per fare i gelati, che conquistano il mondo, abbiamo una pletora. Quindi possiamo avere fiducia nel futuro dell'Italia e degli italiani, soprattutto dei giovani? Se tutti decidiamo di fare un passettino più in avanti, sì. Basta farlo nella direzione giusta. Giusto. Questo sì. Grazie mille, grazie. Prego. A Fabio Zoffi, presidente di Ors Group, che è stato con noi questa sera, ci ha raccontato appunto le evoluzioni del sistema economico e anche qualche aneddoto sul rapporto tra Italia e Germania, dove Zoffi vive da 20 anni con la sua famiglia. Grazie anche a Gianmarco Ferronato in regia e Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e ancora buona domenica.